niente, solo chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. Allora, pare che adesso sia il momento giusto. Chiedo formalmente scusa per quanto già accaduto e per tutto quanto avverrà nelle prossime due ore, diciamo, non lo so, boh, quello che ci... Aspetta, aspetta, vai. È basso. No, ecco, troppo alto. Va benissimo. È successo. Io comunque ti sento basso in cuffia, non so quale sia il tuo effetto. Basso. Ma è meglio che sia così. Ah sì? Il profilo basso almeno da parte mia, perché tu ti fai un rock basso. Allora, intanto ti annuncio che i microfoni aperti contemporaneamente fanno un Larsen che voi non avete idea. Ma insomma, per il piacere di chi ci ascolta. Sono tutti aperti? Sì. Allora, sono tutti aperti, sì, ma ecco che era successo, ho aperto il microfono sbagliato. Ma dicono, fra tutte e tre, più o meno, faremo un secolo di Radio Onda Rossa, io penso un po' di più. Ah, voglio. Un secolo? Magari, ci metterei a firma. Ma un secolo, no, non come età. Dei singoli. No, ah, un secolo di radio proprio. Un secolo di radio, sì. Allora, intanto io comincerei con un po' di retorica spicciola. Diciamo, sì, che ci vuole sempre. Stasera di che si parla, che diremo, eccetera. Quindi, intanto, a nostra discolpa va chiarito il seguente fatto, e cioè che per dire le cose che vogliamo dire, in fondo, non serve tecnologia, giusto? Basta un buon mix tra tasso alcolico e sensibilità umana. E le cose vengono certo, fuori. Certo. La tecnologia serve veramente a poco in questo. Per bene, questo. Bene, infatti non ci assisterà, ma non per la tecnologia, perché non siamo buoni noi. Io sicuro. Perché, cioè, praticamente come in ogni miglior circo togni degli animali, siamo partiti senza fare prove. Praticamente così, apri il microfono, boh, sì, funzioneranno. Mo adesso, quando cominceremo a mettere musica, vedremo che. Soprattutto quei poveri disgraziati che stanno all'ascolto se ne accorgeranno, perché insomma. Sì, tra l'altro io l'ultima volta che ho aperto il microfono in maniera un po' più strutturata erano ormai 16 anni fa, quindi ecco, insomma, ci sta. Allora, intanto ci chiediamo quale sarà il prossimo brano che andrà in onda da questa è tutto parte. Da provare, sì. Quindi io manderei invece di là. Allora, però aspettate un attimo, perché prima così di dare fiato. Vabbè, però c'è la, no? Sigla. Diciamo due cose che stai a stare all'ascolto di Onda Rossa, ste robe così. Vabbè, quelle dille te. Radio abbonamento. Vabbè, ma quelle le diciamo sempre stasera, le diciamo molto brevemente. Radio abbonamento, è partito appunto questo radio abbonamento per sostenere in maniera strutturale Radio Onda Rossa per un anno. Richiediamo che 1000 persone paghino una tessera di 30 euro, prendano una tessera di 30 euro, che significa ascoltare per un anno intero Radio Onda Rossa, avere la garanzia che Radio Onda Rossa possa continuare a esistere. Che è questo spazio 25 o'clock, che ci sta il sito della radio www.ondarossa.info, dove trovate tutte le informazioni che sommariamente vi ho testé indicato. Che c'è un numero di telefono, questo lo sai anche tu. È sempre lo stesso, immagino, 491750. Detto senza il prefisso, perché era proprio vero. Così, non c'era il prefisso. Non c'era il prefisso. Allora, che succederà stasera? Penso che inevitabilmente noi, insomma, incapperemo in qualche ricordo. Però pensavo a questa cosa, no? Cioè, abbiamo sempre dato un po' addosso ai ricordi, a questa roba un po' retorica, ma in fondo, pensando anche all'età, io ritengo che assieme all'età e alla maturità, in qualche modo il tempo ammorbidisca, e non è soltanto una metafora, perché poi in realtà soprattutto nella zona ventrale si è effettivamente ammorbidito molto il tempo. Però direi che in virtù di questo fatto ce lo possiamo concedere, insomma. Ma io direi di sì, insomma, a parte per quello che dici tu, ma insomma anche perché alla fine è quasi normale parlare di alcuni ricordi, no? Venendo qui ricordando quello che è stato Next Time e quello che c'è stato dopo, insomma, e quindi parlando anche attraverso i dischi di Roberto e di quello che ha fatto, insomma, è sicuramente la cosa più giusta da fare, insomma, ancora oggi è la cosa più giusta da fare. Beh, io personalmente, ricordando insomma quei periodi, parliamo del 1986 più o meno, mi è venuta in mente chiarissima una delle mie ennesime contraddizioni, e cioè il fatto che quando arrivai qua nell'autunno appunto dell'86, in cui conobbi il giovane, diciamo, piuttosto, come dire, robustello, insomma, no? Non particolarmente spiccato in altezza, ma bello quadrato, si discuteva molto. Allora, intanto, diciamo, questo simpatico ragazzo che io ho conosciuto all'università, in me ha suscitato, come dire, l'interesse straordinario della coniugazione di ribellione, musica, dinamicità, insomma, era una roba straordinaria. Parlavamo moltissimo del periodo, della decade degli anni Ottanta, no? Sul piano musicale. E qual è la contraddizione? Che in realtà quando arrivavi qui io contestavo molto quella decade, cioè sostenevo il fatto che quegli anni tutto sommato non esprimessero più granché, anzi al contrario, si erano portati via il punk, si erano portati via il progressive, si erano portati definitivamente via la psichedelia, quella che io invece guardavo con la P maiuscola, quella lisergica, e quindi ero anche un po' incazzato nei confronti di quella decade che in fondo nella prima metà alla fine produceva più che altro metal, che ci può stare, però insomma roba istintiva, ecco, il veicolo, il mezzo su come trasmettere le emozioni, per me era un po' finito. Lui diceva invece un'altra cosa, parlava di alternative rock, parlava di neopsichedelia, roba che non ha mai risuonato nel mio immaginario. Io me lo ricordo, fino a poco tempo fa non riuscivo a fare in modo che questa sonorità innescasse una qualche scintilla nella mia mente, fino, stranamente, ripeto, ma è successo per caso. Ma ho visto la playlist. Una insomma, roba incredibile. Sembra una contraddizione. Insomma. Da 4-5 mesi a questa parte sono rientrato un po' per caso, un po' per curiosità, dentro quella dinamica. Non riesco più a staccarmene. Una roba incredibile. Quindi vanno rivalutati, e questa è la contraddizione, almeno dal mio punto di vista, va assolutamente rivalutato quella decade. Su questo, diciamo, trittico in anglo statunitense australiano, che è una roba fantastica, una stella cadente che è avvenuta in quel flash, in quel momento. Sicuramente nell'ambito degli anni Ottanta era quasi inaspettato. Ma una, probabilmente una, c'è una cosa un aspetto del genere. Che anche lui se... forse ha Caronte forse ha citato così in maniera implicita, probabilmente non so se lui stesso ci ha riflettuto o no, però ha citato la rottura di alcune cose, cioè ha detto finiva, portava via il punk, portava via il progressive, la psichedelia degli anni, in realtà portando via se l'è proprio trascinati con sé, perché poi in quel genere di scaletta, giusto, che ha preparato il Caronte ci sta proprio tutto questo, ma non anche in questo caso esplicitamente, ma dentro nelle corde delle persone che poi producevano questi suoni, e di tanto in tanto uscivano fuori. Beh, insomma, a me quello che è successo è che dentro queste diciamo strutture effettivamente abbastanza aderenti ancora al punk, fondamentalmente basate su chitarra, basso e batteria, ma con una melodia in più, con degli accordi diciamo molto più abboccati, beh, io in questo una maggiore varietà, sì, esatto, in sì. Questo sono riuscito negli ultimi mesi, alla mia tenera età, sono riuscito a rimedesimarmi in delle circostanze diciamo molto importanti, no? Sul piano, come dire, dell'introspezione, del viaggio emotivo. Sicuro, certo. Mi è scattata questa cosa. Che poi è la base dell'approccio comunque con la musica, insomma, che noi ci abbiamo più o meno tutti quanti avuto in quegli anni, e credo personalmente anch'io oggi, stasera a casa, mettendo a posto la scaletta, riascoltando i brani all'inizio per cercare di selezionarli, cioè l'approccio è sempre quello di quegli anni, nel senso che le canzoni rappresentavano quello che noi eravamo, insomma, i brani, i gruppi, era un tutt'uno, e ancora oggi è così. Io bene. Direi che sì, direi che è mo, giunto tempo. No, stiamo facendo chiacchiere perché non sappiamo cosa fare. Sì, perché stiamo cercando di non sappiamo proprio che fare. Ecco, non bisogna dire proprio che, tutto, no, diciamo così. Esatto. Vabbè, però io una roba, visto che poi insomma stiamo facendo assaporare senza far la sigla, mettiamo. No? Non lo so, no, la sigla l'abbiamo messa. Ah, l'hai passata, sì, cioè. La sigla, sì. Che è passata. Sì, sì, sì, no, no, facciamo sentire qualcosa. Dai, vediamo. Se vuoi chiacchieriamo noi due così. No, allora io se poi, siete d'accordo, propongo di, sì, sì, di toccare direttamente proprio l'altra parte del mondo. Insomma, viaggiamo direttamente a Sydney, insomma, dall'altra parte del Pacifico. Tocchiamo secondo me uno dei gruppi più rappresentativi, Dead Pretty. Non si può non nominare questo gruppo, insomma, in questo filone, in questa decade. Adesso scelgo un brano, intanto vi beccate un sottofondo per il momento e poi scelgo. dies, dies indeed. What dies indeed, dies indeed. Alone with this monster, I switch money from hand to hand. With the wrong data in my hold, the devil eye, I'm ready. It's a warning. Avrete capito, insomma, stiamo cercando di sbrogliare una matassa di incroci tra microfoni, switch, piatti, microfono, un macello. Ne usciremo, ma intanto continuiamo dai fritti. Il brano che avete ascoltato precedentemente si chiamava Out of the Unknown. Qui invece siamo alla scoperta di luoghi sconosciuti. Sight unseen. Va bene, nel frattempo che continua la preparazione, noi invece facciamo un salto oltreoceano, tornando dall'altra parte, negli Stati Uniti. Loro sono i Green on Red. Il brano che ho scelto, che abbiamo scelto, si intitola Kid Can Read. Street rat. Va bene, erano i Green on Red, adesso alziamo tutte e tre i cursori, poi ne abbassiamo soltanto due. Qualcosa faremo? Io. Però insomma, io guardo Stefano. La storia era partita che i vinili, la plastica, eccetera, eccetera. Invece, che cosa stai trasmettendo questa sera? Una scaletta tutta digitalissima. Però lasciatemi dire, i problemi, diciamo, di anno in anno sono sempre gli stessi. Sì, bisogna dire la verità. Sì, vabbè. Cioè, non siamo buoni noi, perché. Cioè, questa radio va in onda tutti i giorni, quindi c'è qualcosa, quindi che sono tutti capaci, certo. Sì. Però noi utilizziamo delle tecnologie obsolete, insomma. I piatti penso sono proprio una rarità. Abbiamo prima di tutto tolto la polvere proprio dai motori, perché vabbè, si usano veramente. Comunque abbiamo detto, questa sera non ce la possiamo prendere con la tecnologia. No. No, non serve, diciamo, la tecnologia necessariamente per dire quello che è vogliamo. È un palliativo. Allora, io adesso dovrò svicciare il cursore del microfono 2, per cui il Conte alla mia destra potrà parlare e mandare dischi, ma ammutolirà il professore. Quindi attenzione. Non è facile da capire, non è facile. Non è facile. Quando vuoi. Il napoletano è un burdello. È un burdello. Allora, proviamo, vai. Proviamo, eh? Vai. Allora, vai. Non si sente niente, no, non c'è l'uscita adesso. Ovviamente avevamo creduto di aver risolto. Se Mariuccio fosse all'ascolto ci maledirebbe. Allora, adesso ne sono venuti a capo, eh? Hanno fatto un cenno, stavolta è quella giusta. Vediamo un po'. Vai. Vado? Vai. Allora, niente, cominciamo tutto il pezzo con i vinili, perché di qua io sto veramente incasinato, grazie all'aiuto loro. Speriamo di cavarcela e cominciamo con una canzoncina così allegra, ma con un titolo abbastanza triste, Boys Don't Cry. Doveva essere, ma l'abbiamo posizionata male. Riproviamo. Va bene, intanto gli Happy Mondays. Adesso arriva Boys Don't Cry. Allora, pare che sia arrivato un trillo, quindi dovrebbe andare da capo. Mo te voglio. Secondo me è una provocazione, una chiara provocazione. Trillo, vabbè, se è un trillo, grazie, ma insomma, lasciamolo così. È il primo pezzo, dai. Too far to give dall'altra parte dell'oceano ancora, in Australia. Loro sono gli Udugurus. Altre atmosfere molto molto tranquille. Questa però sarebbe da ballare in tondo a braccia aperte. È un abbraccio, è un supporto, è come dire l'immaginario del camouflage, il soldato immaginario che aiuta tutti noi. È un pupazzo d'argilla, è un golem. La mandiamo da capo, eh. Con qualche difficoltà. Joke, proving what a fool. Va bene, dicevamo, erano Yudogurus, insomma, atmosfere frizzanti, pulite, cristalline, di quelle che le ascolti in macchina, dicevamo, sì, le ascolti in macchina, dicevi, te fermi un attimo, accosti e cominci a ballare, e a cantare per strada, sì. E allora dall'Australia degli Yudogurus, dalle spiagge protette dalle barriere coralline ai campi coltivati dell'interno degli Stati Uniti, lui era il principe del blue collar rock americano, John Cougar Mellencamp. Questa spesso la giravamo perché è una canzone che racconta di piccole città, small town, John Cougar. Beyond Jamestown, he saw the sunset on the Tennessee line. Looked at the young man who was riding beside him. He said, I'm old, kind of worn out inside. I worked my whole life in the steel mills near Gary, and my father before me, I helped build this land. Now I'm 77 and with God as my witness, I earned every dollar that passed through. Best things I know, to the eye of the needle, kill them all. There's time to minutes and minutes to memories. Life is the way the dreams we have planned. You are young and you are the future. So suck it up, tough it out, be the best you can. Twilight's last gleaming. He says, son, it sounds like rattling old bones. This highway is long, but I know some that are longer. By sun up tomorrow, I guess I'll be home. Through the hills, Kentucky, across the Ohio River. The old man kept talking about his life in his times. He fell asleep with his head against the window. Said, an honest man's pillow is his peace of mind. World offers riches, riches will be this. I don't take stock in those uncertain things. It's done a minutes and minutes to memories. Life's been the way the dreams we had planned. You are young and you are the future. So suck it up, tough it out, be the best you can. Come dicevamo, saltellando a 360 gradi intorno, con gli occhi e le orecchie aperte, sempre da una parte all'altra, Tree Jones. We'll be right back. Allora, siamo in sonorità molto più vicine al punk, effettivamente. Atmosfere abbastanza più cupe, i tre Giovanni. Allora, però dai, concediamoci un altro bagno nel Mar dei Coralli, diciamo così. Aspetta, vieni di qua, tu non ce l'hai il microfono, che vuoi dire? Dillo a parole tue. Vieni qua. Allora, dicevamo, ci concediamo un... No, sono i tre non più Giovanni. Esatto. Dicevamo, concediamoci un altro tuffo nel Mar dei Coralli, ancora una volta con atmosfere abbastanza delicate degli Udugurs, così come straordinariamente bello e delicato quel piccolo racconto, per chi lo ha letto, di Patti Smith, un regalo, diciamo un ponte emozionale a Robert Mapplethorpe, che immagina, diciamo così, la sua ultima ondata emotiva in una barca a vela alla deriva, lasciandosi andare perché stava morendo proprio sul Mar dei Coralli. Quindi il Mar dei Coralli è, diciamo, quel mare che bagna quella striscia infinita di terra della costa sud-orientale australiana. Quindi con gli Udugurs e questo nella mente ci dedichiamo questo brano Come Anytime, che paradossalmente uno, pensando a Robert Mapplethorpe, poteva immaginare vieni quando vuoi alla morte, lui l'aspettava e così la immaginiamo. Adesso ditemi voi se la persona che amate vi chiedesse mettimi una ballata elettroacustica neopsichedelica, se non scegli questa, se non avessi scelto questo brano, cioè non è possibile, non c'è altro da dire. Sì. Benissimo, grazie. Senti, ma visto che stai sull'Australia, mandami in onda il piatto 1 che proseguiamo. Questi vengono da Perth, si chiamano Stems, leggeri, freschi, ariosi, sì, nonostante l'inverno c'è tutto con loro, vai. Allora, Onda Rossa 87.9 della banda in FM di Roma e del Lazio, ma ormai anche di tutto il mondo attraverso lo streaming online sul sito. Mamma mia, quanto spara, dicevamo. Allora, adesso insomma è il momento di toccare anche un po' l'Europa. È successa anche qui più di qualche magia, contributi straordinari anche nella decade degli anni Ottanta. Siamo in Galles, ovviamente lui è Julian Cope, non può essere altri. Un personaggio, una magia, dicevo, perché è un personaggio straordinariamente poliedrico, è una, musicista, cantautore, compositore, musicologo, un esperto, si dice anche di civiltà neolitiche, pare che abbia pubblicato anche svariati saggi. Insomma, aspetta che ti apro il microfono, eccolo qua. Appassionato proprio di anche di antiche scritture. Esatto. Ma in genere io direi appassionato, cioè uno che è appassionato. Appassionato come approccio, sì. Personaggio sì, sì, veramente. Esatto, emblematico. È uno che si è rappresentato in tantissimi modi e forme diverse. Esatto, è camuffato in, in svariate situazioni, in svariati modi. E infatti il brano, uno dei brani secondo me che lo rappresenta di più, è ancora una ballata, è un Caos Elegante, di Elegant Caos. Lui è Julien Coop. Dicevamo anno straordinario, 1985, ricordava il Conte, quell'anno lui pubblicò World Shut Your Mouth e questo singolo che state ascoltando. Qual è l'immagine che vogliamo dare a questo brano? A me è venuta spontanea, io la ascolterei lanciato in discesa in motocicletta, in piedi sulle pedane e braccia aperte, insomma a croce ovviamente. Eh beh, se esistesse un Dio diremmo che Dio lo benedica. Che Dio lo benedica sempre, sì. Aspetta che tu non ce l'hai più, vai di là. c'è il professore che vuole dire qualcosa. Lui è profondamente pagano, il dio ce l'ha, è Odino o giù di lì, comunque insomma tutta la regione quella panteistica. Vabbè, è un vichingo insomma, sì, c'è sì, no, no, no, però è un celto. Attenzione, un celto, attenzione, perché è partita Worship Your Mother, io a questo punto la lascerei andare. E questo è un po', è un po' la Philip Dick, voglio dire, World Shut Your Mouth, sembra un po' Io Sono Vivo, voi siete morti. Sì. Va bene, ma insomma, voi ve la immaginereste una serata, che ne so, in pigiama davanti alla TV, magari davanti al telegiornale, a parlare con Julian Coop? Che gli chiederete? No, io starei in difficoltà, io starei in difficoltà perché sicuramente terra. Ecco, arriva, no. Aiuto. La figura, ma io tra l'altro qui una proposta una proposta ve la faccio, insomma, abbiamo un Julian Coop, ha fatto 40 dischi, una cosa del genere, io se sta presso. Una proposta ve la faccio così, lanciata nel vuoto. La vogliamo fare una tematica su Julian Coop? Tanto io solo ho i dischi dell'ultimo periodo. Voi ma... avete quelli antichi. Partendo dai Teardrop Explodes. Sì, ma il problema è che per fare una tematica su Julian Coop, ragazzi, qua toccherebbe invitare anche studiosi. Noi non bastiamo. Effettivamente. Oh, e questi sono gli Healing Joke, però, eh. Restiamo in Inghilterra e questi ci facevano un po' ridere per come li vedevamo acchittati, ma quando cominciavano ad attaccare con la chitarra, il basso e la batteria e a cantare rimanevamo tutti senza fiato, erano un po' coatti ma straordinariamente bravi e simpatici. Never-ending dreams. che bellezza, dicevamo. What these images mean. Io l'ho visti al Tenda Strisce, attenzione. Mi sa che fosse l'81, boh, 82. Ah, non c'è quel microfono. Dico sempre roba dei sconti, dei scavacchi, le cose del genere. Forza, non c'è dubbio, insomma, in quel periodo mica si pagavano i biglietti per andare al concerto, eh. Vabbè, il pensiero non può andare anche ai Pisciabrodi, un po' gli alter ego, gli U2 che nella seconda metà degli anni Ottanta facevano, come dire, i combattenti, no? Ve lo ricordate il periodo della Thatcher, i scioperi alle miniere prolungatissimi che hanno affamato, hanno piegato la classe operaia inglese del Nord Inghilterra e fecero i concerti gratuiti davanti agli ingressi delle fabbriche, delle miniere. Dopodiché, proprio immediatamente dopo, vennero in Italia, credo, se non ricordo male, all'Eur, al Palazzo dello Sport, chiedendo delle cifre straordinariamente alte, tipo per l'epoca, tipo 50.000 lire il biglietto di un concerto. Insomma, una contraddizione assurda, straordinariamente assurda. Allora, io, visto che siamo in una parentesi ancora britannico-europea, un brano che, diciamo, non è che ci fa così lustro, però lo ascoltavamo parecchie volte con Roberto. Si tratta di Happy Mondays, roba proprio leggeretta, insomma, quella che definivano all'epoca dance rock. Un brano però piacevole da ascoltare, si chiama Kinky Afro. Dance un po' lisergichina, però dai, un po' colorata, mettiamola così. Una base particolare sicuramente per un brano così leggero. Mm-hmm. Gli Happy Mondays erano sempre stati un po' così borderline, no? Esattamente. Comunque alla fine apprezzabili, devo dire. Some brother today, and I don't Vabbè, è arrivato pure il silenzio, dai, su, abbiate pazienza, è quasi mezzanotte. Allora, restiamo ancora in Europa e facciamo un salto in Francia. Un salto in Francia è un brano che sicuramente chi ci ascoltava o chi magari di nuovo per caso stasera in ascolto potrebbe ricordare, perché questi ragazzi erano tre ragazzini francesi di Le Havre, innamorati del suono australiano, che Rob Younger scoprì per caso e che gli produsse questo disco. Rob Younger, parliamo di Rob Younger di Radio, Radio Birman. Loro erano i City Kids. Io ho pensato alla Marsigliese, invece vedi. Beh, adesso appesantiamo un po', qui torniamo dall'altra parte in Australia. Loro sono i Silver Rifle, Johnny. Qui siamo pesantemente nel, come dire, nella filosofia chitarra, basso e batteria, Adesso voglio chiedere al Conte se non ci sente i Dino a Troppo qua sotto. Sì, un po' adesso che me lo dici, sì, anche se l'approccio immediato che mi dà è più pensarlo legato ai suoni più americani, quelli di fine anni 70, Stooges, C'è il primo approccio, poi comunque dopo, per finire, un pezzetto dei Thin White Rope. Non un pezzetto, ci sarà un filoncino, insomma, sui White Rope. Beh, in realtà adesso, a dirla tutta, i Thin White Rope vengono dopo, quindi occhio, perché dovrebbe essere il contrario. Eccoli di nuovo negli Stati Uniti, eccoci qua, siamo ancora noi. Screaming Trees, quel pezzo di neopsichedelia più politicizzata che comunque rimase a raccordo tra il movimento più antagonista americano della fine degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80 e la nascita di questi nuovi suoni che riscoprivano la psichedelia e comunque alcune sonorità diciamo meno battute negli ultimi anni. Screaming Trees fu un esempio molto bello in questo senso, estremamente coerente, e questo disco, il brano che abbiamo scelto è Transfiguration del 1987. I'm taking too long, just imagine that I'm gone. Everybody wants to sleep, but sleep is something they must keep from getting into. You know, and I know, playing cards we can't pretend, but only you would remember when. Close our eyes and see each other one last time, and you know my to you. io torno in Australia. Questi sono i Lime Spiders, già attivi dalla fine degli anni 70 a Sydney. Slave Girl. Ball and chain. Well, 16 years she's been hanging around, trying to bury me in a hole in the ground. Well, I think it's time that I even the score. There's only room for one in this cage of yours. Don't save me. E queste sono chitarre che fanno surfare, come mimava prima il professore. Questa era di Onda Rossa, 25 o'clock, la 25esima ora, un tempo fuori dal tempo. (06) 491 750 il numero di telefono della radio. La mente già si pogava, altro che noise e metal, ragazzi. Che mandiamo? E non ci siamo fatti mancare niente dell'Australia in quegli anni, secondo me. Ricordavo adesso a Caronte e a professore, ma comunque effettivamente la musica australiana in quegli anni ci ha dato un sacco di spunti e un sacco di divertimento, un sacco di divertimento. Ma senti che è partito sotto, ragazzi, cioè, ma cose da pazzi. I Naked Prey, Stati Uniti. Blind Man. I hear a voice and it says to me, there's a reason for the glass to break. All day I swear and all night I shake. This ground without a king. A jockey's better if it's got one eye. All day I laugh and all night I cry. I'm just waiting for the bow to break. For the bow to break. quando capita che si abita o si vive o si nasce in posti che stanno sempre comunque circondati dal deserto, io penso che inevitabilmente non si venga tanto normali, nel senso i suoni riflettono in qualche riflettono modo il posto un disturbo in cui sei nato e che forse non essere normali è stata sicuramente una grande fortuna per loro, perché hanno cominciato a suonare la musica del deserto che non si era mai sentita prima, e secondo me hanno rappresentato un momento veramente nuovo in quegli anni per quanto riguarda la riscoperta tra virgolette del grande mondo della psichedelia. Loro sono i Thin White Rope, questo è Exploring the Axis, e il brano che apre il lato B, non il solito famosissimo altro pezzo del lato A che non mi ricordo. Questo è The Dirt Song, e apro la strada a Sandro per portarvi ancora più dentro questo mondo di sabbia, di polvere, di sole e di rocce che è il rock del deserto. Thin White Rope. Attivi, nascono se non ricordo male a Davis in California, comunque nella parte più interna, diciamo così. Allora, Thin White Rope, insomma, è un altro di quei gruppi. Aspetta un attimo, non si capisce niente qua. Vai. Conte se n'è andato, di pure lui. No, era proprio eccolo, è tornato. No, mi ricordo di quel periodo, di quei Next Time passati con questo tipo di atmosfere. Si andava avanti per parecchie ore alle volte, perché si iniziava piuttosto presto, alle 9 della sera del lunedì, e poi si andava avanti fino a mezzanotte. Dopo la DR, dopo la DR, agenzia documentazione delle repressioni. Ai 9, quello era 8-9, il palinsesto più o meno era così. Ci possiamo sbagliare, vabbè. Ma comunque a un certo punto, come si faceva, adesso ci si manda, quando si fa una trasmissione insieme, guarda, ti mando la playlist, mail eccetera, sms, la cosa, whatsapp, tutta strada. All'epoca ci si telefonava, non è che potevi leggere esattamente tutta la scaletta che inevitabilmente si finiva per portare molte volte due dischi la stessa uguali, e quindi lì erano delle grosse litigate, perché oh, ma hai bruciato il pezzo, così. Va bene. Beh, io ho ancora le scalette scritte a mano, quella degli speciali babbo nasali, diciamo, speciali estivi eccetera. Va bene, dicevamo, Thin White Rope è un altro di quei gruppi, diciamo, molto controversi, molto gravi nei toni, qualche volta cupi, insomma ti danno la sensazione che esprimano molto intensamente un conflitto interiore, un conflitto irrisolvibile, diciamo indistrigabile. Però il fascino di questi suoni, magari adesso ascolteremo qualche brano di quelli più famosi, ma la cosa particolare è che ancora una volta in macchina, perché perlomeno a me succede ultimamente di ascoltare più che altro in macchina la musica, questi suoni ridondanti, questo conflitto in qualche modo entra dentro la tua testa e il bello è che non esce, cioè comincia a girare, non uscendo inevitabilmente ti porta da qualche altra parte, per cui certe volte sbagli strada, oppure sei sulla solita strada e ti chiedi ma dove sto andando, cioè, qual è, che cosa devo fare, no? Perlomeno mi è successo ultimamente ascoltando in particolare questo brano che si chiama Not Your Fault, appunto non è colpa tua, è assolutamente l'espressione di un conflitto interno molto molto intenso. I know you're Vabbè, non so se è per tutti così, ma insomma vi assicuro che oltretutto ascoltandoli in cuffia la distorsione di questa chitarra, in particolare non sul ritornello ma sul tema centrale, quindi non sulla parte corale, ma sul tema centrale, ha un effetto vibrante, cioè diventa quasi un banco di vibrazione, entra in risonanza il cervello, ti buca il cranio, una roba devastante. Sono ancora loro, un brano più acustico, Think. Things will change. A lot of part-time friends have moved along. When good times have you smiling, I know you're in there dying, 'cause it's just another good time gone. One of the times we got to a little late for drinking on a night too hot to sleep. You said you didn't mind going on this way as long as it was good enough for me. They say the weather's changing, rearranging. Summer's never been this long before. Sometimes it makes me spin how things were so different then, but lately they aren't different anymore. Quanta bellezza, questi erano brani che davvero non riuscivamo a commentare, non c'era veramente molto da commentare. Va bene, adesso non ho capito, forse stiamo in fase conclusiva, no, non ancora. Però quello che vorrei fare è invece omaggiare coloro che hanno anche ispirato un po' il nome di questa nuova trasmissione del filone post 2002, ovvero parliamo di Dukes of Stratosphere, alias XTC. Bene, loro secondo me, ma forse non solo secondo me, sono effettivamente i maggiori eredi della psichedelia, quella degli anni, fine anni 60, inizio anni 70, quella lisergica, dove però hanno un po' reso più spigolosi certi, diciamo, certe note, certi assoli chitarristici, la ritmica. Quindi è, insomma, è un gruppo molto molto particolare, è un po' un ponte, diciamo così, tra la nuova e la vecchia psichedelia. Il brano in particolare però non ascoltiamo ancora 25 O'Clock, io volevo proporvi invece Vanishing Girl. Oh, By this time, the suitcase was getting very heavy, so I rested on a grassy knoll and took a peek inside. As I opened it, out burst a fountain of many coloured butterflies, rainbow game counters, chess pieces, laughing cutlery, tiny chairs and tables, and flying plates covered with exotic fruit. Va bene, in realtà quello che non abbiamo ancora fatto però è almeno spolverare qualcosa dei Dream Syndicate, non so se siete d'accordo, ma non si può non fare. Steve Wynn lo merita tutto. Gone to the dark land. Questa è nuova potenza pura, The Dream Syndicate, Loving the Sinner, Hate the Sin. ovvero odiando il amando il peccatore, odiando il peccato. Qualcuno che si caccia spesso e ripetutamente nei guai. Potrebbe parlare di molti di noi, forse? Probabilmente sì. Allora, altra. No, chi è? Vai. No, niente, per dire che risiamo un'altra volta tutti microfonati, perché la parte vinilica, diciamo. Questo è straordinario. La parte vinilica l'abbiamo messa da una parte, riservandoci sempre un ulteriore appuntamento di approfondimento di una delle tante cose che abbiamo detto questa sera, perché ognuna degli accenni che abbiamo fatto corrispondono poi più o meno a una quindicina d'anni di storia, esatto, di questa radio. Ognuno si di fa questi... presto che le parole, eh? Infatti. Possono essere, sono soggetti, sono possibili approfondimenti sul tema da fare con i tempi dilatati che ci competono. Che ciò esatto necessita. Quindi è un invito, diciamo. No, è un invito a tornare. Vista l'ora è solo un invito a tornare, è chiaro. A restare con noi Radio Onda Rossa. Vogliamo ricordare brevemente che appunto è il 20 di febbraio, abbiamo diciamo il 15 non siamo riusciti a organizzare la cosa, sarebbe stato poi in occasione del fatto che qua sotto si raduna una piccola folla, no? E che viene a deporre il mazzo di fiori qui sulla targa che ricorda Roberto sul palazzo, e che sta qui, e che questa sera insomma un po' della musica di Roberto è nostra, e dico proprio in quest'ordine perché poi Roberto fu veramente pioniere nel far ascoltare, nell'andare alla ricerca di suoni, di emozioni, di sensazioni. Ma stai parlando di quel corpulento giovane e rissoso ragazzo con i capelli più o meno biondi prima che gli cadessero, evidentemente, e che gli crescesse una voglia di proiettili. Sto parlando dietro la nuca, più o meno di lui, perché appunto un po' questo qui era poi il tema che aleggia in questi appuntamenti importanti, belli, interessanti e storici. Comunque Stefano è sempre pronto a ricordarcelo e a darci una mano, a permetterci anche a noi di partecipare. Questo 25 o'clock è come se fosse il figlioccio di quella Next Time, che insomma ha comunque passato tanti anni a occupare i mercoledì sera. Il figlio bastardo. Bastardo, sì, anche. L'avvicendamento di ragazzini che iniziavano a mettere i dischi e poi hanno studiato qualcosina, ma robetta. Va bene, io però non posso ancora chiudere la trasmissione. No, almeno. No, ma tu hai tutto il tempo, noi ce ne andiamo. No, vabbè, ma mancano due o tre brani, però non si può. Ma vai tranquillo, vai non serio. Si può non ritornare sulle ballate, queste belle gioiali, corali, insomma. Quindi di nuovo dai Pretty Blue Sky Day, significa che c'è il sole sempre, quando piove, quando c'è la nebbia, insomma, è straordinario, una roba incredibile. Can you tell that it's all I've done? The whispering words. si viaggia. Io è partito questo brano che si intitola Out of Your None, ancora dai Pretty, non era previsto, ma in realtà è una cosa straordinaria. Qua dentro ci sono un sacco di cose importanti. Quella più importante, secondo me, è l'utilizzo della chitarra. Se avete fatto caso, non è mai uno strumento d'accompagnamento, è sempre comunque un, come dire, un tono portante, diciamo, del brano. L'altra cosa è il titolo Out of the Unknown, è una roba strana perché ci pone in realtà tra lo scibile e il non scibile, insomma non si capisce bene se vogliono dire Out of the Unknown come al di là dello sconosciuto, quindi ancora oltre lo sconosciuto, oppure se Out of the Unknown è invece fuori da ciò che non conosciamo e quindi all'interno dello scibile. È una roba, insomma, è un orizzonte davvero molto psichedelico da questo punto di vista. Questo circuito dialettico. Sì, qualcuno li chiamava deliri semantici. Allora, pochissimi ancora brani, spicciolata, però non si può omaggiare un'altra persona bellissima, veramente una bella persona, Gran Arte, scomparsa quasi 2 anni fa. persona particolarmente sensibile ed oltretutto, se non ricordo male, è stato premiato in due occasioni proprio per la straordinaria sensibilità dei suoi testi. Il brano che vi proponiamo era un brano che conoscerete sicuramente, perlomeno chi è un po' avvezzo su queste sonorità. Roberto lo mandava fino all'ossessione, è una roba che effettivamente è uno di quei brani che puoi mettere in loop e ascoltare 20 volte sempre la stessa cosa, pensando sempre a cose diverse. Queste sono le percussioni che riconoscerete, lui era batterista degli Oscar Du. No, I- Beh, ha trasmesso davvero quasi tutto dei suoi sensi in questo brano. Questo è 25 o'clock, ovvero siamo nella 25esima ora, cioè nel tempo senza tempo. Un'ora che come un fluido riempie tutto lo spazio che ha a disposizione, quindi si estende, si accorcia a piacere. E visto che abbiamo citato Granart, in chiusura non possono mancare gli Husker Du, che pur essendo statunitensi si richiamano a questo, a questa, diciamo, fraseologia svedese, comunque scandinava, che significa ti ricordi. Non si capisce bene perché l'abbiano fatto, pare che oltretutto provenga da un gioco da tavolo svedese, vabbè, roba un po' strana, fatti loro, ma insomma a noi piacciono e li ascoltiamo. E qui le bacchette le teneva appunto Granart. Something I Learned Today. Ebbene, questo era Bob Mould, Granart e Husker Du, era la metà degli anni 80 circa, loro appunto statunitensi, venivano dal Minnesota, ed era l'ultimo brano in scaletta prima di abbandonarci a quel pensiero stupendo che è il camouflage, il soldato immaginario che ognuno vorrebbe dentro il proprio zaino, vicino alle proprie spalle, vorrebbe tenere per braccio tutti i giorni. Affinché lo portasse fuori dai guai. Questa era una leggenda militaresca narrata da Stan Ridgway. Il brano forse più suonato a Next Time era la sigla iniziale e finale. Chi ha seguito questa trasmissione sa che per decenni, diciamo, è andato avanti almeno due volte tutte le settimane. Questo è un rituale magico, una storia, una leggenda di proiettili che vengono schivati, non si sa bene come e perché, attraverso l'aiuto di un fantasma, camouflage. Roberto a questo punto ricordava i numeri della radio, ricordava le sottoscrizioni, ricordava soprattutto cosa che facciamo e che ci piace pensare di fare ancora assieme a lui, e cioè di portare un abbraccio a tutti coloro che ascoltano queste sonorità rinchiusi all'interno delle carceri o comunque costretti a restrizione della propria libertà personale. Noi lo amavamo decisamente, il nano malefico era l'amore nostro. Non ci escono più lacrime forse, ma ci piace abbracciarlo ancora. Took our battle stance, and I wondered how the bullets missed this man. Lui era in fondo un po' come Groucho Marx, di qualunque cosa si trattasse, lui era contro. And the morning we both took a chance and ran. And it was near the riverbank when the ambush came on top of us, and I thought it was the end and we were had. Then a bullet with my name on it came buzzing through a bush, and that big marine, he just swatted with his hand. Just like it was a fly. Whoa, camouflage, things are never quite the way they seem. When I turned around, he was pulling a big palm tree right up out of the ground and swatting those Charlies with it from here to kingdom come. Ricordavamo quando l'automatico era un raccoglitore di cassette e si incastrava sempre, puntualmente dopo mezz'ora si ritornava in radio, gli si dava una botta e quello ripartiva. E poi c'era sempre sto regga che andava 12 ore al giorno, anzi 12 ore a notte. Name, bello sciamano, però due palle. He said you may be telling true boy, but this here is camouflage, and he's been right here since he passed away last night. In fact, he's been here all week long. But before he went, he said semper fi, and said his only wish was to save a young marine caught in a barrage. So here, take his dog tag, son. I know he wants you to have it now. And we both said a prayer. Prego. Allora, stasera siamo giunti al termine. Un saluto a tutti i compagni e le compagne che ci hanno ascoltato. Qui su Radio Onda Rossa, dopo tutti questi anni, ancora una volta insieme. Combiniamo un sacco di casini ancora. Sempre, volta. Sempre più casinari. No, però bisogna dire che si sono affacciati in quattro perché non credevano che si potesse ancora mettere la musica coi dischi. Stasera la e soprattutto con gli occhiali da vista e con gli occhiali da vista e con le puntine quasi che non si vedono perché si sono consumate e senza preascolti, insomma, o forse sono gli occhi nostri che oppure quelli pure quelli si sono consumati, le puntine comunque sassi. Tutti comunque consumati, insomma, Stefano, grazie. E no, io invece quando volete le porte sono aperte, sempre, quando avete delle idee da trasferirci. Nel frattempo parte no lo spot, no, un'altra volta mentre ci non si può fare, attenzione, spot. Aspetta, oddio, come se stoppa sta roba. Vabbè, boh, hai messo in difficoltà. Va bene, comunque sì, siamo andati bene. Un saluto a tutti. La sigla, dai, a tutti e a tutti, ci sentiamo mercoledì prossimo al Cinema Palazzo. L'ho fermato. Sabato al Cinema Palazzo, adesso lo sentirete nello spot fra poco. Dai. Benissimo, buonanotte, un abbraccio a tutti.